chiama me e se verrà le parlerò carezzandola. Certo che il mio amore capirà e poi mi dirà che ci sta. Sarò dolcissimo perché il suo amore è un miracolo, quindi qui da me lei verrà, perché solo a me amerà.